La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e bentrovati a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, l'approfondimento di Dino Pesole ospita l'economista Stefano Zamagni ed è dedicato al confronto tra le crisi economico-finanziarie di ieri e di oggi. Nella seconda parte, invece, un radiodocumentario in collaborazione con History Channel sul ponte aereo di Berlino, realizzato dagli alleati subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. La grave crisi che ha investito il mercato finanziario americano con il clamoroso fallimento della Lehman Brothers, una delle maggiori banche d'affari del paese, e il successivo piano di salvataggio che è stato messo in atto dal governo nei confronti del gigante mondiale delle assicurazioni American International Group e di Freddie Mac e Fannie Mae, i due colossi che controllano i tre quarti della nuova erogazione dei mutui immobiliari in America, sta scuotendo dalle fondamenta l'intero sistema finanziario americano e mondiale. Il panico nel mercato del credito ha indotto i risparmiatori a fuggire dalla borsa per dirottare i propri risparmi nei titoli a breve del tesoro americano, con il risultato che i rendimenti sono scesi all'incredibile livello dello 0,03%. Non accadeva dal 1940, ai tempi dei raid aerei della Luftwaffe sull'Inghilterra, quando sembrava che Hitler fosse a un passo dall'invadere la Gran Bretagna dopo aver conquistato già mezza Europa. Giorni, mesi drammatici. Lo studioso ungherese John Lukács ha ricostruito in particolare quel che avvenne a Londra negli ultimi giorni di maggio del 1940, quando Hitler arrivò a un passo dal vincere la Seconda Guerra Mondiale. Il destino del mondo sarebbe mutato. Il libro si intitola 5 giorni a Londra ed è pubblicato da Corbaccio. Uno di coloro che seppe quanto Hitler si fosse avvicinato alla vittoria finale fu Winston Churchill. In quei giorni di maggio del 1940 si consumò nel gabinetto di guerra a Londra un duro scontro che oppose Churchill al suo ministro degli esteri, Halifax, che ritenne utile interpellare Mussolini e proporgli la parte del mediatore per evitare l'attacco e la capitolazione. Churchill si oppose e alla fine la spuntò. Dichiarò alla nazione che la Gran Bretagna avrebbe continuato a lottare qualsiasi cosa fosse accaduta. Non vi sarebbero state trattative con Hitler. Furono giorni drammatici in cui il destino della Gran Bretagna e con esso quello del mondo intero furono appesi a un filo. La Camera, disse Churchill nel suo discorso davanti al Parlamento, deve prepararsi a gravi e tristi fatti. Non ho altro da aggiungere se non che qualunque cosa accada in questa battaglia, nulla potrà mai sottrarci al dovere di difendere la causa del mondo alla quale ci siamo dedicati. Comunque vadano le cose, a Dunkirk noi continueremo a batterci. Stava per cominciare il più grande conflitto aereo della storia. Così Churchill si rivolse al mondo nell'annunciare l'inizio della battaglia d'Inghilterra. But General Weygand called the Battle of France is over. Il generale Weygand mi ha informato che la battaglia di Francia è terminata. Ritengo che la battaglia d'Inghilterra stia per iniziare. All'esito di questa battaglia sono legate le sorti e la sopravvivenza della nostra civiltà. Da questa battaglia dipende la nostra vita e la continuità delle istituzioni del nostro impero. La furia e la potenza del nemico si rivolgeranno molto presto contro di noi. Hitler sa che o sottometterà noi su quest'isola o perderà la guerra. Se noi possiamo resistergli, tutta l'Europa potrà essere libera e la vita del mondo potrà avanzare verso altipiani più vasti. Ma se falliremo, allora il mondo intero, compresi gli Stati Uniti e incluso tutto ciò che conosciamo e che abbiamo a cuore, sprofonderà nell'abisso di una nuova epoca oscura, resa più sinistra e forse più prolungata dalle luci di una scienza distorta. Accingiamoci dunque al nostro dovere e comportiamoci in modo che se l'impero britannico e il suo Commonwealth dovessero durare ancora per un millennio, gli uomini potranno dire: quella fu la loro ora più bella. Aveva inizio la battaglia d'Inghilterra, in codice Operazione Leone Marino. Il 20 luglio 1940 la Royal Air Force era in grado di far alzare solo 531 velivoli contro i 725 caccia e i 1280 bombardieri delle flotte tedesche. Gli inglesi, tuttavia, avevano un gran vantaggio: il sistema di 30 stazioni radar, il Chain Home, disposte sulla costa. Alla fine di luglio Hitler ordinò a Göring di preparare immediatamente, in gran fretta, una serie di attacchi su obiettivi e convogli costieri. Il 2 agosto Göring emanò le direttive per l'Adlertag, il giorno dell'Aquila, nel corso del quale doveva essere portata a termine la distruzione del comando caccia della RAF. Il 15 agosto iniziò la fase più intensa della battaglia, che si combatté nei cieli d'Inghilterra fino al drammatico bombardamento su Londra. Sulla città caddero 13.000 tonnellate di esplosivo e quasi 1 milione di bombe incendiarie, che uccisero 13.000 persone. La fase finale del Blitz ebbe inizio a metà aprile del 1941 e si concluse con un nuovo pesante bombardamento su Londra nella notte tra il 10 e l'11 maggio, durante il quale persero la vita 1.436 civili. La strenua resistenza degli inglesi e della RAF ebbe successo. Hitler trasferì gran parte delle unità sul fronte orientale per l'attacco all'Unione Sovietica che la Germania nazista sferrò il 21 giugno del 1941. Entro la fine di quello stesso mese vennero ritirati 2/3 dei velivoli impegnati nella campagna di bombardamento sull'Inghilterra. La Seconda Guerra Mondiale entrava nella sua fase decisiva e finale. Churchill aveva evitato l'invasione. Il mondo poteva trarre un sospiro di sollievo. Abbiamo in linea il professor Stefano Zamagni, che è docente di economia politica all'Università di Bologna. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito, professore. Grazie a voi. Allora, la crisi che sta investendo il mercato finanziario americano ci ha dato lo spunto per ricordare il precedente. Anche nel 1940, come in questi giorni, i risparmiatori americani in fuga dalle azioni si rifugiarono in massa nei titoli di Stato, facendo crollare i rendimenti, che in effetti sono scesi a poco più dello zero. Che valore dare a questi fenomeni ricorrenti nella storia, professore? Ma l'economia di mercato di tipo capitalistico, da quando esiste, a partire dal XII secolo, ha attraversato diverse fasi. Si è cominciato col capitalismo commerciale, poi si è passati al capitalismo agricolo, delle campagne, come lo chiamavano, al capitalismo industriale, con la prima rivoluzione industriale nella seconda metà del Settecento in Inghilterra, e dal 1975 ad oggi, cioè nell'ultimo quarto di secolo, il capitalismo finanziario. E in ogni passaggio d'epoca, come si potrebbe dire, i fenomeni come quelli che si registrano oggi si sono verificati anche in altri momenti. Quindi è ovvio che ci siano delle similarità tra la crisi attuale e quella delle epoche precedenti. Però bisogna non lasciarsi prendere in inganno, perché accanto alle similarità ci sono anche profonde differenze. E cioè la differenza ha a che vedere non tanto con la meccanica, come ad esempio quando la gente è impaurita, vende i titoli più rischiosi e investe i propri risparmi, le proprie riserve finanziarie e tutti più sicuri. Questa però è la meccanica. La differenza è che l'attuale crisi è una crisi per certi aspetti più seria, anche se meno traumatica di quella del 29, perché rappresenta la fine di una speranza che molti avevano coltivato, e cioè che la finanziarizzazione dell'economia potesse durare sempre e potesse rappresentare un modo per ottenere ricchezza a basso costo, cioè senza lavoro. Quindi è una crisi di legittimazione, perché la finanziarizzazione dell'economia cosa ha fatto credere intere negli ultimi 25-30 anni? Che si potesse arricchire senza creare in maniera innovativa o nuove linee di produzione, o nuovi prodotti, o nuovi servizi. Ecco, in questo senso questa crisi secondo me avrà un impatto più duraturo delle altre, perché la crisi dal punto di vista del mutuo economico finanziari nel giro di un anno, al massimo due, sarà superata, e si capisce perché. ovviamente ci saranno dei costi, eccetera, però alla gente rimarrà l'amaro in bocca del tipo: ma avevano fatto credere che si potesse guadagnare senza lavoro, giocando in borsa, speculando, eccetera, ho scoperto che non è vero. E la crisi del 29 era una crisi scoppiata nel bel mezzo della società industriale, non della società post-industriale, ed era una crisi dovuta ad errori veramente di gestione finanziaria da parte delle autorità monetarie, mentre questa è evidentemente una crisi che ha, dal punto di vista della meccanica, alcune caratteristiche comuni. Il fatto è che bisogna che la gente comprenda che la finanza non può essere fine a se stessa. La storia e la memoria. Bentornati alla Storia e la Memoria. Vi proponiamo ora un radiodocumentario in collaborazione con History Channel sul ponte aereo di Berlino, un'azione intrapresa durante la Guerra Fredda dagli Stati Uniti e dai loro alleati dell'Europa occidentale per trasportare cibo e altri generi di prima necessità nella Berlino Ovest circondata dai sovietici. Berlino, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era occupata dalle quattro potenze vincitrici: Unione Sovietica, Stati Uniti, Francia e Inghilterra. Ognuna ne controllava uno spicchio, ma Berlino era a sua volta circondata da un territorio sotto il controllo delle truppe sovietiche, quella parte di Germania che per 40 anni abbiamo conosciuto come Germania dell'Est. Questo significava che i rifornimenti via terra per le zone di Berlino sotto controllo occidentale dovevano transitare obbligatoriamente attraverso i territori della Germania sovietica prima di arrivare a Berlino. Il 24 giugno del 1948 l'Unione Sovietica bloccò gli accessi ai tre settori occupati da americani, inglesi e francesi, tagliando tutti i tracciati stradali e ferroviari che gioco forza collegavano l'Occidente a Berlino. Le parti occidentali della città furono anche scollegate dalla rete elettrica, anch'essa sotto controllo sovietico. Berlino Ovest divenne una buia città assediata, senza viveri né medicinali. Marzo 1948. Un treno militare inglese parte da Berlino e si ferma nella zona sovietica della Germania occupata. Dovrebbe essere un semplice controllo delle guardie dell'Armata Rossa. Ma quella sera, violando gli accordi, i sovietici decidono di controllare tutti i passeggeri. Stanno ostacolando sempre di più i passaggi nella loro zona. Gli inglesi respingono la richiesta sovietica. Se non possono viaggiare liberamente, preferiscono non viaggiare. Il treno ritorna a Berlino. Berlino rientra nella zona sovietica della Germania occupata. Una strada e una linea ferroviaria sono gli unici collegamenti con l'Ovest. Le quattro potenze, America, Inghilterra, Francia e Russia, controllano ognuna un settore della città e hanno milioni di persone da sfamare. Nell'ex capitale nazista i settori sono solo delle linee ideali sulla strada, ma la città è nel limbo. Le quattro grandi potenze non riescono a mettersi d'accordo. L'Ovest vuole risollevare l'economia tedesca e il settore finanziario. L'Est vuole estendere il modello comunista nella zona orientale. Intanto fiorisce il mercato nero con le sue regole e la sua moneta di cambio. Sam Young, un poliziotto militare, vede le conseguenze della guerra con i suoi occhi. Era tutto distrutto. Ovunque guardassi c'era distruzione. Era terrificante. E per un ragazzo di 18 anni era davvero preoccupante. Non avevo mai visto niente del genere. Ma agli occhi della giovane Sibylle Grise, appena arrivata dalla campagna, la capitale ha comunque il suo fascino. Era difficile trovare una stanza. Era tutto distrutto. Era molto triste. Ma non così triste come al mio paese. Per me Berlino era la grande città. Tutto ciò che vedevo era nuovo. A 3 anni dalla fine della guerra il cibo continua a scarseggiare. Mentre gli invasori tentano di conquistare il cuore e la mente dei tedeschi, il problema principale resta la mancanza di cibo. Il regalo più bello era la zuppa che ci davano gli americani. Spesso era l'unico pasto del giorno. 23 giugno 1948. Un ordine segreto di 6 giorni prima viene confermato. All'alba del 24, Berlino viene isolata dall'Occidente. Le autostrade e le linee ferroviarie vengono chiuse per lavori urgenti. Mia madre era molto preoccupata. Disse, ora non avremo niente da mangiare. Non dimenticherò mai le parole di mia nonna. Basta che non finiamo con i russi. Nessuno sapeva cosa stesse succedendo, nemmeno gli americani. Gli chiedemmo, che cosa farete? Dissero, abbiamo fatto i bagagli, amico. Dall'altra parte dell'Atlantico, il presidente Truman è in piena campagna elettorale. Tutti lo danno perdente. La sua risposta è diretta. Ciò che serve al mondo per ritrovare il senso di sicurezza è porre fine all'ostruzionismo e all'aggressività sovietica. Ma gli ufficiali della sicurezza della Casa Bianca hanno brutte notizie. Berlino ha un'autonomia alimentare di 36 giorni e il carburante basterà solo per 45 giorni. Truman non può difendere la città, ma ritirarsi rovinerebbe l'immagine dell'America e le sue speranze di rielezione. C'è un'ultima possibilità. I russi non hanno chiuso i corridoi aerei per Berlino. Per fermare gli aerei alleati dovrebbero abbatterli. Ma nessuno sa se sia davvero possibile rifornire 2 milioni di persone di cibo e carburante per via aerea. Solo gli inglesi possono saperlo. Hanno vissuto per 10 anni con il cibo razionato. In pochi giorni i calcoli sono fatti. 1700 calorie al giorno a testa, sotto forma di cibo in polvere e disidratato per essere più facile da trasportare. Sono 1500 tonnellate di cibo al giorno, a cui vanno aggiunte 2500 tonnellate di carbone e benzina, per un totale di 4000 tonnellate al giorno. Il 25 giugno, il giorno dopo l'inizio del blocco, iniziò quindi un enorme ponte aereo. Un'operazione ciclopica, portare quotidianamente a Berlino 4000 tonnellate di cibo e carburante. Se consideriamo che allora l'aereo più capiente poteva trasportare al massimo 3 tonnellate di merci, è chiaro che si trattava di un piano quasi impossibile. Ciò nonostante viene approvato. Gli aerei di trasporto americani e inglesi arrivano in Germania da tutte le parti del mondo. Trasportano uova in polvere, latte, farina e carbone a Berlino. A Mosca Stalin crede sia solo questione di tempo. È sicuro che l'Occidente non riuscirà mai a mantenere la città per via aerea. La pressione sui piloti del ponte aereo aumenta. I rifornimenti che arrivano a Berlino sono cresciuti di 10 volte, ma ancora non basta. Per risolvere la situazione serve un genio organizzativo. Il 28 luglio 1948 arriva a Berlino il generale William Tanner. Durante la Seconda Guerra Mondiale i suoi aerei hanno sorvolato l'Himalaya per rifornire le forze anticomuniste in Cina. Salvare Berlino dovrebbe essere più semplice. Il piano di Tanner è rendere ogni corridoio aereo una tratta a senso unico. 2 per entrare e 1 per uscire. Gli aerei sarebbero decollati ogni 3 minuti, ma contemporaneamente su 5 livelli. In una bella giornata si vedevano aerei sopra, sotto, davanti e dietro. Voglio ritmo, disse Tanner, un ritmo costante come il battito del cuore. Ben presto l'obiettivo è raggiunto e addirittura superato. Si contano più di 1500 voli al giorno, più di 4500 tonnellate di carico. Ormai gli aerei vengono scaricati in 7 minuti, restano a terra solo mezz'ora e hanno una sola possibilità di atterraggio. Se falliscono, tornano in Occidente senza aver scaricato. All'aeroporto di Tempelhof, il vero ponte aereo è l'attrazione di tutti i bambini. Gruppi di ragazzini circondano il perimetro in attesa di qualche aereo speciale. Halvorsen inizia a lanciare dolcetti ai bambini con dei paracadute. È la dimostrazione d'amicizia più toccante del ponte aereo. Gail Halvorsen diventa un eroe. Prima che ricevessi donazioni dalle grosse compagnie di dolciumi, i bambini americani ci mandavano regali e soldi in modo che potessimo comprare qualcosa da lanciare ai bambini berlinesi. La storia e la memoria. Continuiamo con il documentario in collaborazione con History Channel dedicato al ponte aereo che sfamò e riscaldò la Berlino occidentale dall'estate del 1948 all'autunno del 49. Ottobre 1948. I voli continuano giorno e notte. Con l'avvicinarsi dell'inverno, il bisogno di cibo e di benzina aumenta esponenzialmente. Il generale Clay tiene una conferenza stampa. Non ci faremo cacciare da Berlino. Potrete continuare a oltranza il rifornimento degli aerei? Lo aumenteremo e lo continueremo a oltranza. Per dimostrarlo, gli alleati chiamano 18.000 berlinesi, metà dei quali donne, a costruire un nuovo aeroporto in appena due mesi. Ma non basta. Il ponte aereo richiede sempre più uomini e materiale. L'inverno è l'alleato dei russi contro i grandi nemici del passato. È l'ultima speranza per bloccare il ponte aereo. Ci sono dei giorni in cui gli aerei non possono decollare. Il ponte aereo non riesce a portare i rifornimenti a Berlino. Le autorità russe rispondono con una nuova campagna. Credono sia insuperabile. L'Europa dell'Est soddisferà il fabbisogno di cibo di Berlino Ovest a condizione che gli occidentali trasferiscano le loro tessere alimentari nel loro settore. Mia mamma riuscì a procurarsi una tessera alimentare. Mi mandò a Berlino Est, ad Alexanderplatz. C'era un grosso mercato, me lo ricordo ancora, e comprai del pane. E ogni volta mia madre mi scongiurava, quasi mettendosi in ginocchio, di non mangiarne neanche un pezzetto. Mi vergogno a dirlo, ma non sono mai riuscito a tornare a casa senza dare almeno uno o due morsi. Avevo troppa fame. Dicembre 1948. La città viene tappezzata di manifesti per le elezioni municipali. I comunisti boicottano le elezioni e candidano il loro sindaco per il settore russo, almeno finché la vera democrazia non venga ristabilita in tutta la città. La divisione politica di Berlino è completa. I sovietici hanno ottenuto quello che meno volevano. Ernst Reuter viene rieletto. Stavolta nessuno gli impedirà di entrare in carica. Sono passati solo pochi mesi dall'inizio del blocco, ma Berlino sta inesorabilmente dirigendosi verso quella divisione che terminerà solo nel 1989 con la caduta del muro. Nel frattempo è inverno e molti uomini sono ancora prigionieri nei campi di concentramento sovietici. Le famiglie berlinesi faticano ad andare avanti senza i mariti e i padri deportati nei campi di prigionia sovietici. Tra i tagli di corrente accendono la radio per sentire le notizie. Mia madre soffriva molto per l'assenza di mio padre e ovviamente per lei era fondamentale avere una fonte di informazione che le dicesse come stava. E ogni sera sulla RIAS, dopo il radiogiornale, alle 9:30 era l'ora di... Qui parla l'unità di lotta contro la disumanità. Molti cittadini nei campi sovietici davano notizie dei vari campi di prigionia. Un giorno io avevo 8 anni e mia madre mi stava facendo il bagno nel catino. Non dimenticherò mai quel momento. Stavamo ascoltando la radio. Quando cominciò il programma, il giornalista disse: informiamo che l'ingegnere ferroviario Günther Richardi è morto nel campo di concentramento di Neubrandenburg. Mia madre restò pietrificata. Si lasciò sfuggire solo un grido di disperazione. Per lei fu una vera tragedia. A volte, nel buio inverno berlinese, accade anche qualcosa di bello. Incontrare un americano era un'occasione speciale. Teoricamente loro avevano soldi, erano molto carini, indossavano l'uniforme, erano dei giovani molto attraenti. Non feci niente di particolare per fare colpo su di lei. Anzi, lei mi chiamava l'americano odioso. In realtà, quello era il mio primo vero appuntamento. Di certo non è la situazione ideale per corteggiarsi. Non dovevo preoccuparmi di togliermi il cappotto quando andavo a trovarla, perché faceva troppo freddo. È stato un bel periodo. Un periodo felice, ma anche molto instabile. Perché Sam poteva essere rimandato in America in qualsiasi momento. Così Sam decide di parlare seriamente al suo migliore amico. John, che facciamo con queste signorine? Sono troppo carine. Non possiamo partire e tornare negli Stati Uniti e dire solo adios o auf Wiedersehen. Decidemmo di parlarne anche con loro. Fu così che cominciò la nostra storia d'amore. Gennaio 1949. Gli inglesi si rendono conto di poter utilizzare il ponte aereo anche in altri modi. Al ritorno, gli aerei vuoti possono portare i bambini berlinesi in Occidente. Il pilota dell'aeronautica britannica John Irving Eddy si prepara per un volo notturno a Lübeck. Uno dei 22 passeggeri è Peter Zimmermann e ha 10 anni. Ci fecero aspettare per ore. Continuavano a dire che l'aereo non era arrivato o che doveva essere riparato e quindi dovevamo aspettare. Io non avevo paura e mia sorella non si rendeva conto di cosa stesse accadendo. Per Irving Eddy è il terzo viaggio di ritorno del giorno. È una notte fredda e umida. Per i passeggeri è il primo volo della loro vita. Tornare da Berlino, per quanto riguardava il volo e il decollo, era un'operazione normale. Non c'era alcun problema. Ma quando arrivammo nei pressi di Lübeck, ci dissero che c'era un banco di nubi e quanto distava da terra, dalla pista d'atterraggio. Ci consigliarono di scendere di quota e fare un giro di controllo. Ma quando oltrepassammo le nuvole, era così scuro che non si vedeva assolutamente niente. Sentimmo un colpo leggero, poi uno un po' più forte e un altro ancora. Gli alberi erano alti dai 60 ai 90 metri, quindi ci sbattemmo contro. Io provai ad accelerare, ma restammo incagliati. Tutto quello che mi ricordo è un ultimo rumore forte e poi un'enorme esplosione. Mi ritrovai steso, schiena a terra e viso rivolto al cielo, e vedevo le stelle. Anche se era tutto pieno di nuvole, io riuscivo a vedere tutte le stelle del cielo. Peter Zimmermann viene estratto dall'aereo dagli altri passeggeri. Non potete immaginare che scena orribile. C'era un caos totale, non si poteva fare niente. C'erano pezzi di aereo ovunque. E l'aereo che bruciava. C'era un odore terribile e la cosa più terrificante di tutte era che odorava di carne bruciata, di carne umana bruciata. La madre e la sorella di Peter muoiono nell'incidente. Ma questi incidenti sono rari. Niente può fermare il ponte aereo. Soprattutto ora, grazie a una nuova, strana collaborazione. L'ex sergente della Luftwaffe Walter Riggers lavora ora fianco a fianco con gli americani. Ancora non mi capacito di come, appena finita la guerra, ci abbiano potuto chiedere di lavorare per loro. Non capisco come gli venne quell'idea e come avessero potuto pensare che funzionasse. Davvero non lo so. Ci diedero la loro fiducia e noi gli dimostrammo la nostra fedeltà. Dicevano, fate questo, e noi lo eseguivamo. Erano dei ragazzi in gamba. Impararono il sistema americano molto velocemente. Fu una grande collaborazione. Intanto l'industria aeronavale americana produce aerei sempre più grandi. Sono dei veri giganti, come il C-47 Globemaster, che può trasportare 25 tonnellate, il nuovissimo C-97 Stratofighter e il Dakota 8. La domenica di Pasqua del 1949, il generale Tanner stabilisce il record del ponte aereo. Quasi 13.000 tonnellate di rifornimenti in un solo giorno, 1.383 voli. Il gioco è fatto. Alle Nazioni Unite, a New York, si comincia a parlare di vittoria. il ponte aereo è imbarazzante per i sovietici. Clay viene mandato a casa il 3 marzo 1949. I russi affermano che sia stato licenziato. Ma i cinegiornali sovietici non mostrano come viene accolto a New York. Clay riceve una medaglia dall'appena rieletto presidente Truman, l'uomo più forte della Guerra Fredda. It is meant for the American soldier, and above all, for our gallant airmen who flew the airlift to Berlin under every type of weather, under minimum safety standards, and some indeed gave their lives to the success of that effort. The hottest spot in the Cold War is eliminated. Allied vehicles await the removal of the barriers and the signal for the dash to Berlin. With the opening of the gates, a new chapter in post-war history begins to unroll down German highways. Just 10 months and 23 days after the capital was sealed off from the ground, traffic is rolling toward Europe's number one trouble spot. It's a day of triumph for a band of men in the airlift who kept Berliners eating while they were held in an iron ring. 12 maggio 1949. La crisi finisce come è cominciata, senza neanche uno sparo. Cominciarono ad arrivare autocarri dall'ovest. E sorprendentemente, la prima cosa che ci portarono furono quintali di arance. Dissi al mio amico: andiamo fino all'inizio dell'autostrada da dove arrivano e magari avremo fortuna. Lanciavano arance alla gente. A quei tempi erano ancora avvolte singolarmente nella carta e alcuni bambini furono fortunati abbastanza da prenderne qualcuna. Io non ce la feci, e neanche il mio amico. Tornammo a casa molto tristi, come fanno i bambini. Quelle sarebbero state le nostre prime arance. Andai in cucina e non potevo credere ai miei occhi. Lì, sul tavolo, c'erano ben due arance, tagliate a spicchi, come le ninfee. Alla fine del ponte aereo, il 31 agosto, sono stati trasportati in città 1,7 milioni di tonnellate di cibo e benzina. Le regole della guerra fredda sono stabilite. In Europa non scoppierà una guerra vera. La Germania è divisa in una parte comunista e una capitalista. Berlino, la città che ha visto nascere la guerra fredda, ne vedrà la fine solo 40 anni dopo. L'Unione Sovietica tolse il blocco a mezzanotte del 12 maggio 1949, ma gli alleati proseguirono il ponte aereo fino al 30 settembre dello stesso anno per ricostruire le scorte della città ed evitare così di ritrovarsi impreparati a un nuovo blocco. Dal 25 giugno 1948 furono effettuati in totale 278.228 voli, trasportando 2.326.406 tonnellate di cibo e altre forniture, dando vita al più grande trasporto umanitario della storia. All'apice dell'operazione, a Berlino atterravano 1.398 voli ogni 24 ore, trasportando 12.940 tonnellate di viveri, carbone e macchinari. Prima di chiudere vi segnaliamo che History Channel trasmetterà la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato, dal titolo Il ponte sopra Berlino, martedì 30 settembre alle 12.25. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Laura Marchesi. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.